24 mattino. Certo che fare il lavoro vostro in modo obiettivo, prendere atto di come sia, grazie a Trump, l'economia americana, del fatto che con gli accordi col Messico le fabbriche sono tornate in America, del fatto che ha stravinto anche con la Cina, tutto il resto proprio non conta niente, tralasciando che la Siria si è sistemata quando ha alzato il dito lui, che Ciccio Kim ha abbassato le ali. Per fare un tavolo ci vuol Di Maio, e con Di Maio anche Zingaretti, poi ci vorrebbe anche Bonafede e anche Conte e anche Conte, ma se manca Renzi non si fa più il tavolo. E in tutto l'elenco che hai fatto di disgrazie che capitano all'Italia hai dimenticato quella giallorossa della Roma, che tra un po' neanche Franklin la vuole più. Ciao bello Giorgio De Luca, a tradimento mi mette il WhatsApp audio dell'amico romanista. Dio mio, lasciamo perdere. Comunque questa storia dei tavoli non è male, non è male. I tavoli che si moltiplicano. Dal tavolo su welfare e lavoro se ne fa uno sulle pensioni, uno solo sul welfare, uno sulla ricollocazione, eccetera, eccetera. E poi ci saranno degli altri tavoli più piccoli. E sempre più piccoli. Tipo Alice nel Paese delle Meraviglie. Ah. Vedremo se emergerà qualcosa da questi tavoli. Ah, io lo spero, Con un filo di scetticismo. Allora, siamo alla seconda parte di 24 Mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. Sono le 7:22 minuti, è mercoledì 12 febbraio. E vi aspetto, le vostre voci al 349-238-6666, sms, messaggi su WhatsApp, soprattutto messaggi su WhatsApp audio, non che non li legga quelli scritti, però la vostra voce la mattina mi fa piacere sentirla. Ci fa piacere sentirla. Aperture varie, devo dire la verità. Finalmente si esce un po' dallo schema solo coronavirus, con La Repubblica che apre, già lo accennavamo prima, con questa intervista realizzata con la famiglia di Patrick Zaki, questo studente che studia in Italia, egiziano, che è stato torturato, arrestato e torturato, e riferisce La Repubblica che è stato torturato per sapere, per avere informazioni sui regeni. Repubblica ha in apertura questo, parla anche dei dati sulla denatalità. Mattarella, le parole di Mattarella, aiutiamo le famiglie. Ed è l'apertura questa di Avvenire, sempre meno figli, l'Italia più debole, il richiamo di Mattarella sulla denatalità mentre l'Istat certifica i minimi dal 1918. Ne parleremo più avanti alle 8:20 con Maria Latella nella terza parte di 24 Mattino e con i nostri ospiti. Avvenire che dedica spazio ovviamente anche al coronavirus, ora per l'OMS è peggio del terrorismo, scrive Avvenire. E l'apertura sul coronavirus la conservano il Corriere della Sera, che titola 18 mesi per il vaccino, e il Quotidiano Nazionale, gli scienziati, il virus è una minaccia globale. La politica in apertura della stampa, con Meloni che dice Salvini ci fa la guerra, è un retroscena interno alla riunione della direzione di Fratelli d'Italia, il tema sono le regionali. Il Fatto Quotidiano, che parla di un Renzi posseduto da Salvini, con un fotomontaggio che mette insieme i due. Prescrizione, il lodo Conte bis esce dal mille proroghe, diventa un disegno di legge, ma Italia Viva si schiera con le destre. Fuori bordo è il titolo del manifesto su nave Gregoretti, oggi ci sarà il voto per il processo a Salvini. Salvini rischia il carcere, il titolo del Giornale. Salvini nelle mani dei giudici è quello della verità. Grande risultato del governo, Italia più tassata d'Europa, è il titolo di Libero. E sulla giustizia, stop riforme di parte, titola il Messaggero, un'intervista al vicepresidente del CSM Ermini che raccomanda calma. Il Sole 24 Ore titola sul budget di Trump. 40 miliardi di dollari alle missioni spaziali e parla anche dell'industria e a centropagina. La Lombardia è bloccata, riferisce. Ed eccoci dunque, iniziamo come sempre da un po' di cose laterali e torniamo su due vicende che ci hanno colpiti o appassionati o insomma ci hanno fatto cadere le braccia nei giorni scorsi. La prima ha a che fare con le scuole di Roma e i rifiuti. Scuole di Roma nelle quali non si passa quasi più a raccogliere i rifiuti o si passa a singhiozzo e c'è questo paradosso che viene raccontato da Lorena Lo Iacono nella cronaca di Roma, pagina 32, con in atto nelle scuole di Roma la campagna sul coronavirus, sull'igiene per il coronavirus e poi però ci sono i cumuli di immondizia praticamente accanto nella scuola stessa. Il preside, titolo, bambini costretti a giocare tra i rifiuti, è ora che intervenga la ASL. A testimonianza di tutto questo, una foto dei rifiuti accatastati nel cortile dell'istituto Leopardi a Roma Nord. Non c'è più tempo da perdere, denunciano i dirigenti scolastici. Per le scuole di Roma il problema dei rifiuti sta diventando infatti un problema sanitario e i rischi ricadono soprattutto sui bambini. Di fatto nelle scuole, visto che la raccolta differenziata va a rilento, si stanno creando di fatto delle mini discariche, insomma, che stanno là con i rifiuti, qualche cassonetto ripieno, i pezzi di carta, tutti i rischi che potete immaginare, con il risultato che gli studenti, anche quelli più piccoli delle scuole di infanzia, si trovano a dover assistere a spettacoli indecorosi, ma è anche ovviamente un problema sanitario. Non sappiamo più a chi rivolgersi, denuncia Mario Rusconi, presidente dell'Associazione Nazionale dei Presidi di Roma, dice: la situazione sta peggiorando, abbiamo segnalato già al Campidoglio e alla città metropolitana, ma nessuno ci ha risposto. Non resta che allertare le ASL per chiedere che intervengano gli esperti a controllare il territorio. Vedremo come finirà questa vicenda delle scuole di Roma, dove appunto si fa prevenzione sul coronavirus, lavatevi le mani per almeno 20 secondi, attenti a cosa toccate, quando tossite copritevi la bocca e poi esci dalla classe e c'è il cumulo di rifiuti da giorni. L'altra vicenda è quella di Sanremo e degli imbucati. Allora, le indagini proseguono, ci riferisce il Messaggero, sempre a pagina 12, con Michela Allegri e Simone Canettieri, che interviene la Corte dei Conti, che sta indagando. È stato aperto un fascicolo per danno erariale sulla trasferta di massa al festival. La lista si allunga, perché oltre ai 634 dipendenti ci sono anche più di 200 collaboratori. E tutti quei dirigenti che erano là in prima fila. Il festival andrà in diretta alla Corte dei Conti. I magistrati contabili hanno aperto un fascicolo sulla spedizione di dirigenti, collaboratori, famiglie a Sanremo. Il PM Massimiliano Minerva vuole capire se ci sia stato o meno un danno erariale per le casse della RAI, costretta a pagare le trasferte oltre a rinunciare agli incassi per la poltrona occupata all'Ariston, perché c'è anche questo. L'inchiesta degli uffici coordinati dal procuratore Andrea Lupi piomba sul Festival della Canzone Italiana dopo l'intervento del collegio sindacale di Via Mazzini, composto da un ispettore. Una spedizione dei mille, scrivono Allegri e Canettieri, quasi, perché appunto oltre ai 634 interni RAI ci sono i 200 collaboratori. Oh, l'azienda si giustifica, lo scrive il Corriere della Sera, per esempio, e dice: attenzione, abbiamo fatto più ore di programmazione, 90 contro le 77, e quindi serve più gente. E però, insomma, ci sono un po' di perplessità per tutte queste poltrone occupate, perché passi per una serie di dirigenti strettamente coinvolti, ma altri come Antonio Preziosi con la figlia, che è il direttore di Rai Parlamento, Delia Gandini, che fa parte dell'Internal Audit, Nicola Claudio, direttore della Governance, Massimo Maritan della direzione creativa, Davide Di Gregorio del Corporate, insomma. Quanto al presidente FOA c'erano capo staff, consulente della comunicazione, un ufficio stampa presente anche quando il presidente non c'era, e tutti, diciamo quasi tutti, in prima fila, tanto che Novak Djokovic era seduto in terza fila e quando è stato chiamato sul palco si è dovuto far largo, insomma, per passare tra i dirigenti della RAI. Una piccola... prima di andare su questa piccola storia locale, ve la voglio raccontare perché non è male, ha a che fare con un tema, anche questo trattato spesso, l'eccesso di turismo mordi e fuggi, ha a che fare con un piccolo lago, una piccola valle. La storia non è male perché un piccolo lago, una piccola valle che conoscete, che avrete visto in TV. Ma prima vi voglio portare sul giornale, a pagina 9, con Chiara Giannini. Apprendiamo da Chiara Giannini sul giornale che il Ministero della Difesa non sta versando più i soldi ai nostri militari in missione. Come mai? Perché i conti sono stati pignorati. Ma io non so se vi rendete conto, il Ministero della Difesa con i conti pignorati. Cosa è successo? La difesa non paga le bollette di luce, acqua e gas. E allora arriva il pignoramento dei conti. Venerdì scorso a tutti i militari impegnati in missioni di lungo corso all'estero, ovvero addetti militari, personale che lavora nelle ambasciate o che sta facendo corsi fuori dall'Italia, è arrivata la comunicazione che dal 24 gennaio scorso, a causa di onerosi vincoli pignoratizi da parte di Poste Italiane, che sommati a quelli già precedentemente apposti ammontano a circa 22,6 milioni di euro, con conseguentemente sconfino di circa 3 milioni, eccetera, eccetera, le indennità di missione non potranno essere pagate. Insomma, non è che rimangono senza stipendio, però non viene pagata l'indennità di missione, che per i militari che sono in missione è una fetta importantissima e rilevantissima dello stipendio, uno dei motivi per i quali si va in missione, cifre mensili che vanno in media dai 2.200 ai 3.400 euro e che non potranno essere corrisposte a causa dei pignoramenti disposti da alcuni tribunali italiani di circa 40 conti. L'ultima storia sulla quale andiamo e poi andremo tra poco con Paolo Mieli sulla parte centrale della nostra rassegna stampa ci arriva da quello che il Corriere della Sera, pagina 18, definisce il lago incantato. Cos'è? È il lago di Braies, è stato reso famoso in TV dalla serie Un passo dal cielo, quella con Terence Hill. E che cosa succede? Succede che sta reggendo un afflusso turistico pazzesco, che non è un afflusso turistico che quelli di Braies, quando hanno concesso l'uso dell'area, per così dire, siamo in Alto Adige, si aspettavano. Perché è un turismo che arriva là, foto postata su Instagram e poi ce ne andiamo, mentre invece quello che vorrebbero è un turismo che sta di più, che si gode i posti, che li vede, eccetera, eccetera. E invece, racconta Isabella Bossi Fedrigotti, il lago di Braies come Venezia sembra proprio di sì. Sono infatti molte migliaia i turisti che ogni giorno, almeno nella bella stagione, invadono la piccola valle laterale della Pusteria, dichiarata patrimonio dell'UNESCO, per poter dare una breve occhiata all'incantevole distesa d'acqua nella quale si specchia la croda del becco. Vi si fermano un paio d'ore, mangiano panini sulla riva, scattano selfie a raffica e poi se ne vanno, lasciando quasi sempre intonsi alberghi, pensioni, bed and breakfast, ristoranti, in cambio però abbandonando carte, avanzi di cibo, lattine, sacchetti di plastica in gran numero. E dunque si sta cercando di lavorare perché questa folla enorme di turisti che affluisce ogni anno, più che si riduca, insomma, diventi una folla di turisti un po' più attenta a quello che è la realtà della valle e venga là anche per godersi il posto. Pausa. Mattino. Caro Paolo Mieli, caro direttore, buongiorno. Eccomi. Un saluto al prossimo capo dello Stato, secondo stando alla campagna che abbiamo lanciato per Mieli Presidente della Repubblica. I vostri messaggi audio. Non commento. No, certo, non devi commentare. È una campagna che faccio io. 349-238-6666 per la vostra approvazione anche via audio. Ti voglio portare, caro Paolo, in apertura. Andiamo su una delle tue grandi passioni, le sardine, che ieri hanno incontrato il ministro Provenzano. E oggi un'intervista a Mattia Santori sulla stampa che dice: sbagliata la piazza dei 5 Stelle, molti di noi sono contrari al taglio degli eletti. Insomma, si istituzionalizzano, mi par di capire. Il grande caos che c'è nel centro-sinistra allargato ai 5 Stelle, le sardine sono un contributo all'ampliamento di questo caos, però almeno simpatico. Avrei visto che in questa intervista, che è un'intervista fatta a Francesca Schianchi, propongono un Erasmus intranazionale fra nord e sud, sì. Un summit tra esperti internazionali a Taranto che sì. Coinvolga la UE sul rapporto ambientale. Insomma, hanno molte proposte e litigano con i 5 Stelle. Hai capito benissimo perché litigano con i 5 Stelle. Gli articoli sono vari, Cesare Zapperi sul Corriere della Sera, perché sabato, venerdì e sabato 5 Stelle prima e Sardine poi faranno una manifestazione a Roma bloccando Piazza Santi Apostoli, bloccando, sì, lo dico io ironicamente anche qui, e quindi le sardine dicono che quella dei 5 Stelle è inutile perché è strumentale, che non, sì, importa niente a nessuno, e tra l'altro molti di loro sono contrari al taglio degli eletti. E poi loro fanno i loro passi avanti. Io che spulcio le notizie sulle sardine tutto il giorno, Gianpaolo Visetti su Repubblica dice che in Veneto il nuovo PD fa un passo verso Greta e Sardine, candidati civici alle regionali a Venezia per conquistare giovani e ambientalisti. Vedi come Santori com'è. Dice che lui forse farà, si presenterà alle elezioni, ma solo locali, si sente un politico, dice no, mi sento come un segretario di partito, ma senza nessun privilegio dei segretari di partiti. Non comando, non ho autorità, non prendo un soldo. Sì, che chissà quali sono questi privilegi dei segretari di partito, invece più spesso si trovano a gestire problemi che altro. Però insomma, gli disgraziati adesso li vedremo. Però tra un attimo senti, tra un attimo ci arriviamo. Ti voglio però, prima di andare alla politica italiana, ti vorrei portare sulla politica americana, il New Hampshire, dove questa notte, ovviamente sui giornali non c'è tutto questo, Bernie Sanders si è ripreso la scena un po' persa con i caucus nell'Iowa, i quali aveva vinto seppur di strettissima misura Pete Buttigieg. Quindi torna a sé, vince Sanders in New Hampshire. Io ho visto proprio le notizie di 5 secondi fa, vince ma di misura. La scorsa elezione, 4 anni fa, nel New Hampshire aveva vinto meglio e comunque ha vinto, ma qui le notizie, sai, sono ancora talmente tanti i candidati che non si possono prendere notizie su chi vince piuttosto su chi perde. Chi perde è Biden, quello che conferma i miei sospetti che l'impeachment per Trump, che era basato su insinuazioni su Biden, suo figlio e quello che avevano manovrato in Ucraina, ha nuociuto a Biden più di quanto abbia nuociuto a Trump, anzi a Trump non gli ha nuociuto per niente, quasi, sì, per niente, mentre a Biden, e siccome hanno insistito tanto i democratici, non credo che questa sia stata una mossa autolesionista inconsapevole, io penso che quella mossa contenesse un siluro a Biden. Comunque, chi vuole portarsi avanti, mi sembra ben fatto l'articolo di Sarcina, Giuseppe Sarcina sul Corriere della Sera, democratici spaccati, Biden fugge perché Biden se ne è scappato dal New Hampshire prima, e quindi sì, insomma è un articolo che non ha i dati che hai fornito tu, ma ci dà letti in una palla di vetro. Ci dà un'idea generale. A proposito di parlamenti che decidono sui processi, siamo alla vicenda di nave Gregoretti. Oggi ci sarà la decisione parlamentare sul processo a Salvini per nave Gregoretti. Vi si dedicano in particolare alcuni giornali in apertura, dico, come La Verità, che parla di Salvini nelle mani dei giudici, Il Giornale, che dice che Salvini rischia il carcere, e soprattutto non è proprio chiarissimo cosa faranno i parlamentari leghisti oggi, Ma da quello che hanno detto si assenteranno dall'aula oppure non voteranno, si asterranno, ma infatti quei titoli che tu citi, quelli del Giornale e della Verità, sembrano essere quasi polemici nei confronti di Salvini, perché gli dicono Salvini nelle mani dei giudici, La Verità, Salvini rischia il carcere, Il Giornale. È come se gli dicessero, ma come, tu prendi un atteggiamento quasi ti consegni ai giudici, quasi favorevole al processo, quando stai correndo questi rischi per fare una manovra incomprensibile, stai sbagliando la tua mossa. Perché oggi si avrà il paradosso che i leghisti, appunto, probabilmente si assenteranno, mentre Fratelli d'Italia e Forza Italia voteranno per il no al carcere di Salvini. E non si capisce, pare che Italia Viva, il gruppo di Renzi, il partito di Renzi, prenderà una posizione diversa dal centro-sinistra. Lo vedremo, ma fa parte di un discorso più ampio che faremo, immagino, dopo. Sì, abbiamo una pausa e poi veniamo al discorso più ampio sullo stato della maggioranza. Io sono la prima luce del giorno, il colore del mattino, il momento d'oro. Sono il tuffo nel piacere e la musica per il palato. Nasco da terre lontane per arrivare ovunque. Sono l'accordo delle arabica più pregiate io. Sono l'armonia e il mio nome è Lavazza Qualità Oro. Nuovi Lavazza Qualità Oro e caffè d'altura. Sinfonia perfetta per mocha in capsule. Mattino. Ed eccoci di nuovo, caro Paolo, con le questioni più, anzi anche la questione Gregoretti è ovviamente una questione politica, però le questioni che hanno a che fare con la maggioranza, quindi con la questione della prescrizione, con Renzi che ieri ha votato con il centrodestra e questa tensione, no, che continua a attraversare nel, appunto, PD e Italia Viva, 5 Stelle e Italia Viva, eccetera, eccetera. L'articolo più importante è quello sul Sole 24 Ore di Emilia Patta, che riassume in modo asciutto: prescrizione, alta tensione, Renzi governo, quello che dicevi tu, sfiorata la crisi nel voto in commissione, dove Italia Viva ha votato con le opposizioni e l'emendamento è stato bocciato, 42-44, ma è stato bocciato in modo risicato. E allora si sono allungati i tempi per correggere la buona fede. Tra l'altro, sempre sul Sole 24 Ore, Paolo Armaroli definisce quello della sfiducia a buona fede minacciata da Renzi una pistola scarica. Secondo Lina Palmerini, Renzi punta non tanto alla fine della legislatura ma a un cambio di governo. Insomma, è un caos, ecco, questo. Tra l'altro ieri l'avvocato dello Stato ha bocciato a sorpresa la legge spazzacorrotti, c'è un articolo di Giovanni Bianconi sul Corriere della Sera, Massimo Franco sempre sul Corriere della Sera, una tensione che nessuno sembra in grado di controllare. Zingaretti fa un'intervista a Maria Teresa Meli dicendo Renzi sta cercando di logorarci. Sì. Il Fatto Quotidiano, come tu hai già raccontato nella precedente parte della tua rassegna, mette insieme, ormai li presenta come un unicum, Renzi e Salvini, due Mattei. Prescrizione, Renzi vota con le destre di Berlusconi e Salvini, articolo di Vandamarra. E insomma, è veramente fuori controllo, come dicono i giornali. Matteo è capace di tutto, poi ci sono molte indiscrezioni, per cui Zingaretti nelle interviste dice delle cose dure, ma nelle indiscrezioni degli articoli, come quello di Adalberto Signore sul giornale, è furibondo. Cioè, ormai sembra che lo scontro principale nel paese non sia più fra PD e Salvini, ma fra PD e Partito Renzi. Democratico Italiano. È quasi impossibile che la maggioranza vada avanti in questo modo. Ci sono 20 senatori berlusconiani pronti a prendere il posto, berlusconiani oppure ex pro, esuli dai Movimento 5 Stelle organizzati da Gianni Letta, questo riferiscono le indiscrezioni, che sono pronti a prendere il posto di Matteo Renzi, però come capisci bene è una cosa molto complicata. Sì, decisamente. È così come è complicata la gestione della questione del coronavirus, che sta impegnando ovviamente un po' tutto il pianeta, sta impegnando naturalmente anche l'Italia. Partirei da questa grande fuga dai cieli cinesi che ci racconta Gianni Dragoni a pagina 6 del Sole 24 Ore, dove insomma il tema per le compagnie aeree non è solamente il fatto se far volare, no, gli aerei verso la Cina, no, in andata e ritorno dalla Cina, ma anche nel momento nel quale li fai volare come far sì che i dipendenti salgano su questi aerei e non si rifiutano. Dunque Etihad di fatto, ci racconta Gianni Dragoni, premia chi vuol volare verso la Cina, economicamente dico. E questa è una cosa molto curiosa, perché la compagnia di Abu Dhabi ha deciso di incentivare i dipendenti disposti ad andare in Cina, anche perché i posti nei voli internazionali sono crollati, e è un dato indicativo in tanti sensi. Innanzitutto curiosa la trovata di Etihad, ma anche che la crisi economica, la parte economica di questa crisi ha fatto un salto in avanti, perché se tu devi cominciare a pagare di più quelli che vanno in Cina, lo stesso sarà per i tecnici di tutte le industrie che lavorano con la Cina. Insomma, si pone un problema che avrà delle ripercussioni molto molto ampie sull'Italia. Sì. Tra l'altro segnalo dal Quotidiano Nazionale a pagina 5, lo trovate solo là, a proposito di paure tra i dipendenti, beh, ci sono le paure dei dipendenti delle poste, no? I postini in allarme, ci racconta il Quotidiano Nazionale, con i sindacati, a partire da quello dell'Emilia Romagna in particolare, che pretendono maggiore attenzione per i lavoratori, che hanno contatti coi pacchi esteri al recapito e agli sportelli col pubblico. Quindi chiedono guanti, disinfettanti, mascherine, perché poi, come sappiamo, sono circolate le voci sul fatto che il coronavirus, questo Covid-19, questo è il nome ufficiale dato, insomma, si rimarrebbe attivo anche a contatto con gli oggetti fino a 9 giorni. Non è ancora confermato, lo diciamo agli ascoltatori anche come informazione di servizio, non è ancora confermato. Succedeva con altri coronavirus e quindi gli scienziati suppongono che possa succedere anche con questo, ma non è ancora confermato, le analisi dovranno dire qualcosa di più. Ti porterei a chiudere... Prima di chiudere ti volevo dire che mi aveva incuriosito un articolo di Cecilia Tanasio Ghezzi sulla Stampa, che dice che in Cina, a Wuhan, ben 500 medici sono stati contagiati. Questo mi ha fatto molta impressione, questo articolo della Stampa, perché capisci, se il contagio prende i medici, che immagino abbiano usato tutte le precauzioni, e allora vuol dire che la cosa è un po' più preoccupante. Ma sì, scusami che ti ho interrotto. Sì, abbiamo veramente 30 secondi, Paolo, per la vicenda di Patrick Zaki, lo studente, che studiava in Italia, egiziano, arrestato e torturato in Egitto. Beh, insomma, è una questione che pone di nuovo all'attenzione il tema dei nostri rapporti, no, con il Cairo. Sì, qui il giornale più informato, che segue meglio la cosa, è Repubblica. Rivolgiamo Patrick, è andato a trovare la famiglia dello studente egiziano arrestato al Cairo, e c'è un'intervista, ce ne sono anche altre, anche una su Corriere della Sera, con Di Maio. Dice che però al Cairo noi dobbiamo tenere l'ambasciatore. Questa polemica che bisogna ritirare l'ambasciatore italiano è sbagliata, perché tra l'altro anche per premere, per accertare la verità, ci serve l'ambasciatore. Forse ci ho riflettuto, l'ho letta e l'ho riletta, forse non ha tutti i torti Di Maio in questi casi. Grazie anche per oggi al direttore Paolo Mieli per essere stato con noi. Ci lo ritroviamo venerdì, come ben sapete. Adesso c'è GR24. Ci ritroviamo subito dopo con Maria Latella. Parleremo del tema della natalità. Beh, i dati di ieri sono impressionanti. Il saldo tra nati e morti è ai minimi da oltre 100 anni. Si ragiona sulle soluzioni, ammesso che ce ne siano. Se ne avete, 349-238-66 per messaggi WhatsApp, anche audio. A tra poco.